Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalle Lamentazioni e da Isaia. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Al dolore che ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha punito. Eppure, Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Signore, tutti sono stupiti, tu sei caduto, non hai la forza. Sei inciampato e ti sei ritrovato a terra sotto la croce. L'uomo, durante la sua via crucis, cade a motivo della sua fragilità. Signore, tu sai quanta umiltà, quanto amore e quanta forza e speranza occorrono affinché ci si possa rialzare per continuare ancora sulla via portando la croce. Gesù, cadendo, hai guarito tutti noi dalle nostre ferite, dalle nostre infedeltà, dalle nostre debolezze. Non permettere che ci tolga il coraggio o ci fermi il giudizio del mondo. Quando riconosce la nostra debolezza e il nostro vacillare. Eccoci in preghiera, affinché ogni uomo possa trovare la forza e la grazia per non rinunciare e non stancarsi. Fa che ripieno della tua misericordia, del tuo spirito, della tua forza e del tuo amore, ogni uomo possa essere perseverante sulla via della vita. Signore, la tua caduta rianima in noi la speranza che non ci lascerai mai soli. Com'è doloroso incontrare una persona delusa, un giovane che ha il cuore nel buio, una famiglia che non è più unita, un sacerdote al quale sono crollati tutti i ponti e sparite tutte le vie e non ha più obiettivi. Gesù, per tutti coloro che vacillano e cadono, per la speranza, per l'umiltà, per l'amore, per la forza che sono necessari, siamo oggi qui in preghiera. O Gesù, aiutaci a rialzarci. Rafforza i nostri passi sul nostro cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crudele.